Friuli nel mondo, 125esima trasmissione dedicata agli emigrati. Vogliamo oggi dedicarvi, cari amici in ascolto, alcuni componimenti di validissimi scrittori nostrani che con linguaggio vivo e con sottile sensibilità esprimono il carattere e la spiritualità di nostra gente. Dello scrittore Riedo Puppo, Une more di Baraz, dal titolo Tite Dopli. Tite Dopli, a lei anch'io ue un bocognon di om, sempre bon come il pan, quanca le sancir, al dareis da lui anche a sofradi, ma quanca le beccat, al da dal tu anche al pape. Di permanent, cagliere alpin, al venim per mes la prime volte sabide sante, arriva a Sante Margherite, te ostarie d'ogne dal fuart, cal su nave gloria. E a ore di cene, agliere anch'io in pin stor il banc, cal saludave amis e al scolave tais. Sante Margherite alle un paesut pizzinin, ma par vie dal fuart, ti rivin e ti partissin di lì, sempre ufficiai in grant. Propit in che sabide sante, agli entrata l'ostarie un colonel. Al vignin denant plan plan pal mies de stanzie, e la traversa a zonte fur. Tite al viarzei voi, che io veve mie siaraz, giuste parviò di salliere un colonel e salliere alpin. L'ufficial lui chialà cu la code dal voli, par controllà sal saludave o mancul. Tite agliere sempre lì, con tunemante sacchette che altre cu la tace, col comodon infrontat sul banc, che funzionava di sbaccio. Il colonel alle indenanze in sul balcon, poi al voltà. Al comodà con un tiron le giacchette e al tornare in daur chialan fis l'alpin in muse. Tite lui chialave anche lui, lui fisca il podeve. Alveve une biele plume blanche sul chiapiel. Il colonel si ferma a red dal soldato e i berlà. Mi astu viodut, sì o no? Sì io, disse al Tite. E s'altro qui che so io? Sì io, un colonel. E allora? Non s'astu c'è cal comando un colonel? Tite al tirafur la man de sacchette, partignisitor il banc, al scolac il sclip calveve tetace e al risquindè. Ma, par me cal comandi un tai, e lui calchiolice calcrot. Beazzi viei, dello stesso autore, è un ameno racconto della semplice vita familiare di un tempo. Beazzi viei, chei che no sance che ie la tape a cronometro e di tutti gli speraulis tecnicis di zuc, a cognosi un nome... Fuori il mi chiamo, che sa beve in spume, non la tegni in agita al stomi. Unedì, Hermis Munin, alveve un faganel malà, al devi bevuto un incastri. Un faganel che al dismoveve tutto il borb, sal stave ben. Hermis, al mande Emilio Uaraz a viodilu. Milio al vacia l'alu, po al tornecà. E allora, disse all'Hermis, c'è ti se meia. «Mal, mal», disse al Milio, «non mi han anche conosciù». «Iacundos, lo ves conosciù?» Quel che al fu clamata rispondi ad un'eccitazione a 85 anni par via di un debit di 15 francs. Il giudice conciliator impone di parai il debit. E Iacun, «Opai sì, signor giudice, opai, se il signor mi dà la grazia di chiatà lavoro, opai sì». Quanti al morì, al clamà il plevan e al fase teste e sosmans. Signor plevan, o vares voe di lassà 500 francs per glesie e 1000 pal benefici. Bravo, Iacum, bravo, al special plevan, un galantom di viv e un galantom pimoir. E in dula saresino che sbes. Alle che il copensi anche io, signor plevan, a rispinde Iacum. Une carogne di viv e une carogne di muart, al zontal plevan. Ma in che volte, carogne? Al voleve di ninin, agliere tutto un altro mondo. Pensai che il vicchiari merlus, calvignivi u di Sante Margherite come il sfulmin in biciclette, al coreve s'aveso parce. Parce che agliere sicurato sulla vite e al tentave di colà parchia pasial. In che volte, nessun robave, a cirivin di guadagnarsi la vite onestamente. Ue invece, alle un onor a farsi mantigni. Di fat checo, alla fat cont che un contadin al manten sied di lor. Al mancul coves la soddisfazione di saver quai che son i miei, disse al piloco. Avaresin di mangiare curte, ve? anzi, per dire la verità, lui la dite sutile, e invece di mangiale, la doprate un'altra paraule di significato quasi contrari. Ma contenti di stessi, in buine e di cur. L'unico vizi agliere che non usavi in apatisè, che anzi, doi amions di brezza una volta, doi di chei che distudavi in la sedda spes, all'erin a confessarsi a feagne, par via che là, in quei timps, agliere un prede calpative tante di che sete anche lui, e dunque agliere un'evore adatta, capiu. Ben, si spettaresse o altri une domande di che ste fate? C'è vin beveso. Proprio così, il plevan ora fate queste domande. Signor plevan, o hai il vizio di bevi, ma o befu nevore, a tutti gli soris, e tutti il tim d'alan. E c'è vin beveso, disse il plevan. E c'è William, disse il prin cagliere Beppo. Robe di chiase fin candè, e dopo te i cantinonsve. Clinto, Merecan, Nostran, anche Bacosio, basta i calzedi neri. Oh, c'è brut vizi coves. Non saveso che il vin al pare l'om a fil di bestie. Ben ben, aromai c'è calea le. E parpinitinze o disares, vince rosaris. In che volte gli spinitincis a ieri un po' chialchiadutis? Il pecchiador al cedè il confessionari al suo compagno. Ma quando che si scambiare in il puest, Beppo non può fare di manco il divisale a me, che al beve non tin. Dipo tin, viot che io col bacò e merecan, o a vinti rosari su peschene, tu che tu tetti sbutigli, ti incapite un scialar. Tin, non capi ben lì per lì, e alle so. Anche lui aveva nome un pecchiato. Signor plevan, o bev sempre e non soi mai plen. E c'è vin beveso, disse il plevan. Signor plevan, sulla mesteme si potrà scrivi un evore e bon. Io ho chiucci butilis di rosazis e di faelis, a chi ret si visate speraulis dal suo amì, al capì di colp, al ferma di bot, al sbasalchiaf e al spietà la sglavinade di rosaris. Il confessor al sclarì la vos, poi al sentenzia. Cula verità si laude Dio. Savese c'è di Dius? Che il di rosazis me pete anche a me? Po ben, al continuare il plevan, ci ri di non passare la misura. Sì, insomma, ci rin di limitarsi. E parpinitinze, o disarin tre gloria patris. La conclusione fu che Tin aiuta Beppo a dire rosaris e Beppo al gambià qualità di vin. Aurelio Cantoni, eccovi ora la poesia La Viele, e un quadro pieno di candide suggestioni, di passione, di dolore e di ricordi. Cul chiaf plet, la viele là di fur, su quel scagnut s'insumie, sot dal suo fazzolet. Oris dal cur, a cuc in tant che violis, coa planc la luz de di s'impie. Ma poc cul scur, la viele lleve su, e entre strescinant a planchinin te chiase. E tutta le platat la sot, in tal scurut vaiot dal fazzolet. Il scur degnò, al ven sburtant la viele su pestiale, cula lum, t'un scur plui grand. Al movisi dai labri tra li sgrispis, diu al rispuint soflan, li sosperaulis, tra il slusi dai mons. Sod dal soreli, la neve indurmidide si disfas, e coli iu dei pez aslax cidins. Cussi che viele, ir l'altri e ie manchiade, tra il becolada i poleciuz te cort. Il Crocifiste Neef di Enrico Cragnolini è una stupenda poesia carica di dolore e di speranza. Puar signor, glaciate neef, Christ in cross. Puar signor glaciat, in tal mio cur glaciat. Puar signor, cence vos, sulla cross distirat, cence nessun intor. Puar signor, dismont, torne liv, pom fraioms. La stampe chialde dai tuoi pis di scolz a disfarà la neve. E infine di Riedo Puppo il Cadenazzo di Virgilio, che descrive un gentile episodio dei tempi passati. Par Virgilio la Pasche e venive prende domenie. Il dì di Pasche lui non aveva la mude gnove e non mangiava nie di differente. Al partive buinore e all'ave pai prats di Besol, a su pappe stelax e a taia bacchetis di morar, par sentasi a fassi viloz sotto l'aris grand di Nando. Viner santi invece, quand che duci frutz dal borg, si dava in dongeli d'eglesie, prima di partì cui chiadenaz di strisinate glerie, Virgilio agliere come il capo, al tagliave i chiavei inchedì, e va di che a lui i pareve di essi lizer come un agnul, cence che il cocon di chiavei ros, che i cresseva in dudlan sulla cope. Si sentivi lo arrivà di corse de bande de stradelle dal pozzo, e al pareve che venisse in denand la caroce di un gran cont. De glerie agliere lui, cul chiadenaz dal sior, il paron di quasi tutto il paese. Il sior all'ere un om di cur e adegnevul. Non la save di nessun l'onor di lustrare il chiadenaz. Dome a Virgilio, il frut lui puer dal bor. Anche che gli altri sfruts arrivavi in cui chiadenaz. Robe alla buineche, nanche di metti cu la chiadene dal paron. Po' dopo gli utacavi in un cull'altre tune file lunghe e a partivi di corse e a tiravi in volte denant a doi Quel di Virgilio lupeavi in code. Lì non si alciave mai cul tirà e si lustrave meor. E lui, l'isere di scolz, cui chiavei ros, blancs di polvere di strade, altrotave in bande dal suo chiadenaz, a chialai a nei che si sfreolava in teglerie e tal pulvin. E al pareve une guardie di scorte e chiadene dal paron. A misdì, tutte la squadre si fermave tal bos di lavie, sulla renzide dal riul. Talà genete arresentavin alla svelta i chiadenaz e a partivin subite, che prende stre avevin di essi consegnati. Virgilio appena arrivato sulla place, al distaccava il so e al correve dred dal paron. Al spietave cul cur che i batteve cacialassi in anel paranel, e quando che juve odeve a fa di sì cul chiaf, che tutti il chiadenaz allusive come un spieli, i vignive la muse ridint. E allora il paron al mandave a chioli quattro pagnucci di pan quinciar e un bez d'arint. E Virgilio al tornava a casa content come ne pasche, e pa strade al cerciava il pan. Così ognan. Ognan il paron al sacrificava pa i puers dal pais, un eman di pan e un aquilin d'arint. Finché all'arrivà l'anda al sud, che in tutta la stagion non aveva plot mai, e la riul agliere sec. I frutti che partirono in cui chiadenaz non si inviarono in quell'an de bande di lavie, ma quintri la ledre, dome là e gli ereaghe. E sul misdì arrivarono sull'arzin e come simpri a distaccare gli schiadenis, ognun la so, e a scomenzarin a sbaziali stalaghe de ledre. Anche Virgilio. Al chiatan puestut lontan di che gli altri, laghe e veve di sei clare e nette pal chiadenaz dal paron. Lo resentà quattro cin volti, lo tira su, lo spacà e al viodeca l'usive pardù. Dome che un iarbà di aghe agliere fat su tor dal ganz. Anche mo ne resentate allora. E po' vie. Virgilio lo chiapà pal pringanel grand e lo buttà un plom talaghe fonde. Un attimo. Forse che il ninin disburtare per buttarlo in là. Il bar sotto i pis ha slacato une bucate di turbit e Virgilio al plombate ledre. L'aghe glaciate i cioncial flat, i pis aslichiavi in tal pantan e la curin lumenave vie. Al tentà di salvare il chiadenaz, ma squignivarzi la man par chiapassi tun ciuf di arbe e la chiadene pesante tune battute di voli e fu glotude da laghe. Virgilio arrestà cence fevele, indurit. Cence vai, sebbenché le lacrimis gli esevin come nolis dai voi spalancati. Si tira su ben plan pa i bars, che non si rompessin anche chei. Agli essi da laghe e al schiampà, schiavacianti chiams, quintri chiase. E quand che il paron, che al venia savelu, i mandà il pan quinciat e l'aquilin darint come sempre, al scominciava i come un disperato. Che e fu la più brutte pasche de sua vita. Ma forse no. La più brutte pasche puar Virgilio e fu che de Russie, quanto una sborfata di plomb l'usea teneva. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ermete Pelizzari, dizione di Ottavio Valerio.